Ci eravamo passati accanto in sogno, additando quei muri fatiscenti, eretti contro antiche fondamenta, rimasti in piedi malgrado la strada, rovini scavata in discesa e l'acqua, solchi la pietra e cespi d'ortica nei fossi pungano tra la lavanda. A sera lo stridore di una ruota segue colpi di zoccolo di mulo e la pietra scotta il passo del lupo rimasto dietro a greggi inesistenti. La lucertola riposa sulla vasca, il suo ventre secco e una vanga conficcata squarcia una fessura fresca d'erba e l'arnia è vuota sotto, un altro nido vuoto, e dondola a una corda grassa un secchio rotto. Ci spalancherà la porta il vento, spianerà nel folto dell'erba un varco ed entreremo insieme di folata, foglie staccate dallo stesso ramo, di altri padri che saranno nostri, un volto d'antenato incorniciato nella veglia perenne della frana. Havíem passat pel costat en somnis, assenyalant aquells murs decrèpits drets contra antics fonaments en peu encara, malgrat que el carrer obrat, fent baixada, s'esfondri, i l'aigua solqui la pedra i brots d'ortiga els fossats punxin entre l'espígol. Al vespre, el grinyolar d'una roda li segueixen cops de peülla d'asa i la pedra escalda el pas del llop, a la guait rere ramats inexistents. La sargantana reposa a la banyera, el vent treixut, i una pala clavada encet un solc fresc d'herba i el rusc és buit sota un altre niu buit i penja gronxant d'una corda llardós un poal trencat. Obrirà de bat a bat la porta al vent, aplanarà a l'ufanor de l'herba un pas i d'una alenada hi penetrarem junts, fulles separades, de la mateixa branca, d'altres pares que seran nostres, un rostre d'avantpassat emmarcat en la vella perenne del despreniment.